3, 2, 1, via! Buongiorno a tutti e benvenuti a una nuova puntata dell'Incredulo da Elisa e da... E dall'incredulo che sono io, sono Giorgio il Popolano, quello che non lo frega nessuno. Caro Giorgio, mi risulta che a quanto pare tu abbia scansato il raffreddore. Beh, ammettiamo che ci sono state delle contingenze che hanno fatto sì che io non lo prendessi. Per esempio, da quando più o meno ne abbiamo parlato, ho cominciato a fare degli infusi di curcuma e di zenzero. Compro lo zenzero al mercato, la curcuma al supermercato, come mi ha indicato tu, Elisa, e invece di prenderci due caffettacci o due orzacci, durante il giorno mi prendo un paio di tazze di questi infusi. Bene, domenica che ero alla partita e ero senza copricapo, ma pioveva come Dio la mandava, quelli che mi stavano intorno dicevano: ti piglierai il raffreddore, domani sarai a letto con la febbre, ma ti rendi conto come sei incosciente? E invece è successo che sono tornato a casa, il capo mi si è asciugato e il lunedì stavo discretamente bene, grazie a Dio. Forse curcuma e zenzero e le loro proprietà mi hanno aiutato? Può darsi, può essere. Sicuramente hai delle difese immunitarie molto più alte rispetto a prima, e quindi la pioggia non ti ha ucciso o comunque non ti ha indebolito. Quindi cominci a credere un pochino? Io non ci credo lo stesso, queste sono robe da hippie che pigliavano dei cartoni grossi quanto una mattonella. E già che parliamo di strani e stranezze, oggi Elisa, di che cosa ci educerai? Oggi vi parlo di qualcosa che è sempre molto molto terreno, molto molto naturale, che sono i cristalli. I cristalli, ma i cristalli quelli che mettono dentro al telefonino per vedere lo schermo. No, i cristalli pietre, quindi quei sassolini che assumono colori e forme diverse per la loro natura chimica. Ma va, ma quelli che si comprano nei negozi che vendono le pietrine per i collezionisti. Esatto, quelli che vengono usati per fare collane, bracciali, orecchini, anelli e tutti quanti i monili molto apprezzati da noi donne, ma che se usati, diciamo, in purezza, hanno delle vere e proprie qualità benefiche. Allora, fammi capire, quelle pietre, che alla fine sono pietre, per quanto belline siano da mettere in una qualche bacheca, io da ragazzino ero un po' appassionato di minerali, in realtà servono a qualcos'altro che solo alla mostra o solo allo studio geologico? Esatto, sono la cristalloterapia è considerata oggigiorno una delle medicine energetiche, quindi come fiori, come Reiki, come tante altre cose di cui abbiamo parlato nelle scorse puntate, il cristallo ha la capacità di assorbire le energie negative, naturalmente, e ristabilire un benessere fisico e psichico all'interno dell'uomo, soprattutto se posizionato sui vari chakra o sui centri energetici, quindi lungo tutto il corpo. E come funzionano? Si sbriciolano e si sniffano? No, si comprano queste pietre che di solito vengono, si chiamano burattati, quindi hanno questa forma rotonda senza spigoli, e in base al colore e in base alla proprietà che hanno, possono essere posizionati sul corpo o dal terapeuta attraverso proprio dei massaggi o dei trattamenti di riequilibrio energetico con i cristalli, o comprati dalla persona su aiuto di un operatore olistico, di una persona che si occupa di cristalloterapia, in base alle proprie esigenze portate addosso durante il giorno. Insomma, questi ciottoli da mugnone messi sul corpo, portati addosso, tenuti vicino, in qualche modo hanno una funzione benefica e curativa sul corpo? Esatto, hanno proprio una danno benessere fisico e psichico, riescono a riequilibrare il flusso energetico e sono una cosa a dir poco straordinaria, perché ti devo dire, anch'io all'inizio quando mi sono approcciata ai cristalli, benché mi attirassero tantissimo in quanto donna e attratta da queste pietre preziose, capivo poco la loro funzionalità. E invece nel mio percorso di scoperta dei fiori, in un periodo in cui stavo veramente veramente molto male, in cui ho fatto una full immersion in fiori, una mia amica mi ha regalato una pietra che era appunto collegata al fiore che stavo prendendo, che era la malachite. Questa malachite è posizionata sul cuore perché è verde, quindi chakra del cuore, ha avuto su me un effetto di farmi sentire leggera, molto molto molto leggera, mi passavano le cose di mente, era proprio in un periodo in cui stavo sulle nuvole, era quello di cui avevo bisogno. E da lì, come tutte le cose, siccome anch'io sono un po' come te, un po' San Tommaso, ho deciso di studiare. E nel mezzo del mio studio mi sono, tra l'altro, approcciata a un'altra pietra, che è l'ambra, che pare tolga i dolori fisici. Il mio cane zoppicava e non aveva niente, avevo una collana d'ambra, gliel'ho messa sulla gamba, per la sua massima gioia, come ti puoi immaginare. Però dopo mezz'ora aveva smesso di zoppicare e la collana era rovente, rovente. Quindi ho cominciato a studiare piano piano come funzionano queste pietrine. E ti devo dire che da quando casa mia è stata infestata da lampade di sale, come ti potrai immaginare, e pietre, esatto, e pietre di vario genere, si sta molto meglio. Sarà anche l'effetto, diciamo, della bellezza di queste pietre, però danno una serenità e una pace. Quindi, Elisa, queste pietre non lavorano solo sullo stato emotivo, sull'emozionalità, per esempio uno è ansioso, si mette il lapislazzulo nell'orecchio e in qualche modo gli passa l'ansia, ma proprio vanno a lavorare anche su problemi fisici, per esempio i dolori, non so il tuo cane cosa avesse, ma insomma era un qualcosa di prettamente fisico. Queste pietre hanno anche caratteristiche curative per singole e specifiche malattie o comunque problemi del corpo. Ora banalizzo, mi esplodono i brufoli in faccia, mi ci metto il quarzo spolverato e in qualche modo mi passano, oppure lavorano ad altro livello? Sì, lavorano anche per una purificazione del corpo, quindi nel caso, non so, ora dei brufoli, uno potrebbe farsi un elisir col cristallo di rocca, che è appunto il cristallo che serve per purificare. Per elisir intendo infilare il cristallo dentro una bottiglia di vetro d'acqua e lasciarlo al sole dalle 11 alle 13, perché prenda le energie appunto più calde del sole. Una volta che è stato quelle 2 ore al sole, uno filtra, quindi toglie il cristallo e beve quell'acqua. Quell'acqua avrà effetto purificante e quindi sì, ti aiuta a depurare il corpo, a depurare anche dall'acne, appunto dai brufoli, se sono proprio nel momento in cui il tuo corpo sta cercando di espellere le tossine. Stessa cosa può essere fatta col cristallo rosa, che invece ha un effetto calmante. Col cristallo rosa si può sia fare l'elisir che metterlo nella vasca da bagno, se uno ha bisogno di fare un bagno rilassante, oppure inserirlo nelle creme, specialmente nelle creme solari, perché la sua proprietà riesca a penetrare dentro le creme solari e quindi darti un effetto calmante sulla pelle se il tuo corpo dovesse, diciamo, aver bisogno dalla troppa esposizione al sole di un effetto un po' calmante. Quindi sono utilizzabili in diverse maniere. Avevo sentito la storia che le pietre o i cristalli si ricaricavano al sole. barbaramente me l'avevano spiegata così, e avevo sentito anche la storia di metterli nell'acqua e poi bere questa infusione. Però la domanda è: l'acqua tenuta al sole sul balcone magari un pochino si ravviva la flora batterica che ci sta dentro, e una pietra in qualche modo all'interno dell'acqua perde dei granuli e comunque rilascia delle sostanze. Se questa pietra è lo zolfo, insomma, non è tanto salutare così a cazzotto bersi il composto. È una mia mala interpretazione oppure qualche dubbio sui cristalli utilizzati così c'è da averlo? Prima di tutto bisognerebbe usare l'acqua minerale e non l'acqua del rubinetto, come in ogni cosa. Si tratta di lasciarla 2 ore al sole in una bottiglia di vetro che, si presume, sia stata lavata bene e sterilizzata, quindi che venga fuori in così poco tempo, diciamo, della flora batterica è difficile. E poi non tutte le pietre possono essere usate per berle, lo zolfo assolutamente no. È una pigliafoto. Oppure sta di terme, insomma, comunque il bagno con lo zolfo alle terme si fa. Per carità. Ci sono tante pietre, come può essere la sormalina, che si sgretolano tanto di per sé per la loro conformazione, infatti non vengono usate per l'elisir. Di solito vengono usati i quarzi, il quarzo rosa, il quarzo di rocca, il quarzo citrino, che hanno tutti effetti diversi, però che sono comunque pietre che al contatto con l'acqua non si sgretolano. Dove si acquistano queste pietre per evitare fregature? Magari ci danno un bel pezzo di plastica cinese o indiana. Si possono acquistare in delle erboristerie specializzate che si occupano anche di cristalloterapia, oppure in tutti i negozi di pietre preziose, e quindi non su delle semplici gioiellerie, ma negozi che appunto si occupano di pietre e cristalli. Oppure anche online, solo online, però bisogna stare un pochino attenti sui siti dove si acquistano e la loro provenienza, perché lì, ecco, il fatto di che vi possa arrivare plastica non ci giurerei, ecco, non ci metterei la mano sul fuoco. A cazzotto, che tipo di prezzi hanno queste pietre? Sono molto costose oppure hanno prezzi che alla fine sono abbordabili? Un pezzettino di burattato può andare, diciamo, dai 2 ai 5 euro, ora dipende anche un po' dal tipo di pietra, quindi magari la radice di zaffiro, di smeraldo e di rubino costano un po' di più rispetto a un quarzo, un ametista, un diaspro, una turmalina, che magari sono un pochino più economici. Quando invece si va a lavorare su cristalli più grandi, come può essere una drusa d'ametista, che in realtà non è da portare addosso, ma da mettere in casa, si sale sui dai 20 ai 50 euro, ecco, dipende poi dalla grandezza. Però in sé per sé le pietrine da portare addosso su 2-3 euro non costano di più, ecco. E Elisa, come si fa a trovare informazioni serie e informazioni credibili che in qualche modo indichino a chi è intenzionato a cominciare questa cristalloterapia o comunque a lavorare con pietre e cristalli, dove trova le informazioni per sapere le proprietà di una pietra, che cosa fa e come utilizzarla? Online ci sono tantissimi siti che parlano appunto delle proprietà della cristalloterapia, tanti libri che parlano anche molto molto schematicamente e molto semplicemente, dividendo, no, cristalli per nome e proprietà. E comunque sia, all'interno dei negozi che vendono cristalli potete trovare anche delle piccole indicazioni sulla tipologia di cristalli, a che cosa servono. Comunque di oggigiorno di informazioni ce ne sono veramente ovunque, e tenete presente che su alcune tipologie di pietre bisogna un attimino stare un attimo attenti, per esempio pietre nere o grigie non andrebbero mai portate nella parte alta del corpo, quindi l'onice, il granato, l'ossidiana, perché dopo un pochino danno un senso di soffocamento. Infatti sono pietre per la loro colore che si addicono al primo chakra, quindi andrebbero portate, diciamo, da sotto l'ombelico in giù, quindi o nelle tasche dei pantaloni o nei piedi. Oppure ad esempio il calcedonio, che è una pietra azzurrina che tra l'altro è tantissimo utile nel caso di raffreddamento e mal di gola, che appunto andrebbe messa nel chakra della gola, quindi portata al collo, abbassa tantissimo la pressione corporea, quindi chi soffre di pressione bassa è bene che non la porti per andare a giro, perché c'è il rischio che veramente gli vada giù la pressione e si senta svenire, perché viene usata anche per le persone appunto che soffrono di pressione alta per cercare di regolarizzarla un po'. Quindi sono innocue di per sé, però lavorando anche su aspetti fisici bisogna stare un attimino attenti, quindi la cosa migliore è, appena vedete qualcosa di strano, toglietevi la pietra. Incredibile dictu. Un'ultima curiosità: un tempo conobbi uno sciroccato che sosteneva che per rendere l'ambiente degli ospedali più salutare e permettere più rapidamente le guarigioni dei pazienti, sarebbe opportuno mettere negli atri degli ospedali quelle specie di bombe che vengono giù dal cielo, non so esattamente come li chiamino, qualcosa come diodi o roba del genere, non sono esattamente meteoriti, che fuori sono come fossero lava bruciata, ma dentro sono pieni di cristalli. Ora, quella era la teoria di uno sballone, ma in linea più generale, ci fosse un cristallo gigante in un atrio di un ospedale, secondo te funzionerebbe? Si potrebbe mettere dei geoidi di così si chiamano, si chiamano così. E te hai studiato le scienze? Non lo so, dipende un po' da che cosa si vuole riuscire a ottenere all'interno dell'ospedale, perché l'ametista favorisce tanto il sonno, quindi magari nelle stanze delle persone per farle riposare. Il quarzo rosa diffonde pace e tranquillità, il quarzo di rocca purifica, la selenite anche, quindi sì. Però poverini, gli fate fare un bel lavoro a questi poveri cristalli, a stare tutto il giorno in un reparto d'ospedale. Questo programma ha preso una linea molto bizzarra. Tra un po' parleremo di alieni, di angeli, di energie cosmiche, ma oggi comunque abbiamo appreso che quelle pietre che si vedono in giro, che si vedono addosso alle persone o che si vedono nelle fiere degli hippie, in realtà non sono sassi da mettere nell'acquario dei pesci, ma sono uno strumento che, se usato nella maniera opportuna, ha capacità non solo di depurare il nostro corpo, non solo di depurare la nostra psiche, ma persino l'ambiente in cui viviamo e che ci contorna. Mamma mia, che parola orrenda. Elisa, grazie delle tue indicazioni, se anche sono incredibili, io questa non lo so, sa lo zenzero. Però se ti venisse il raffreddore potresti prendere il calcedonio, almeno che non ti tua sotto di pressione bassa, e vedrai che nell'arco di un paio di giorni ti passa tutto. Sono incredulo, ma sono anche uno sperimentatore. Via, andiamo dai cinesi, prendiamoci una bottiglia di vetro, poi si passa in erboristeria un paio di pietre e proviamo a fare l'elisir, anche se ora di sole ce n'è pochissimo. Ringraziamo gli ascoltatori di Radio Big World che ci hanno seguito fino a qui, insomma, a sentire queste favole, che però poi, messe in pratica, qualcosa effettivamente fanno. Ma naturalmente ringraziamo Elisa per le sue conoscenze, la sua pazienza nel diffonderle e nella sua apertura mentale, dato che si relaziona con uno come me che la mente ce l'ha parecchio chiusa. Grazie a te, Giorgio, è sempre carino e utile confrontarsi con te, e grazie a tutti gli ascoltatori di Radio Big World. E chissà la prossima settimana cosa mi racconterai.